ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Attenzione, attenzione a tutti i risparmiatori, a tutti gli investitori. Ascoltate subito Due di Denari con Meazza e La Rosciani. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, eccoci in diretta. In realtà vorrei subito rispondere all'ascoltatore, al quale dire oggi più che ai risparmiatori e ai piccoli investitori, ai quali raccomandiamo sempre di ascoltare Due di Denari, ci rivolgiamo ai lavoratori, perché come sapete è mercoledì, abbiamo i mercoledì del lavoro e oggi abbiamo la puntata speciale come sempre con INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Attive. Di che cosa parleremo con il presidente oggi, con Sebastiano Fadda? Parleremo dell'attività dei centri per l'impiego molto sotto i riflettori nell'ultimo anno, come sapete, perché sono stati al centro anche di una sostanziale rimodulazione dell'attività, perché c'è stato l'ingresso all'interno dei centri per l'impiego appunto dei cosiddetti navigator, queste figure professionali che sono state concepite nell'ambito di tutta l'operazione reddito di cittadinanza, cioè tutte le persone che si vedono riconosciuto il reddito di cittadinanza teoricamente devono essere poi aiutati dai navigator presso i centri per l'impiego a trovare lavoro. Come è andata quest'anno? Funzionano? Non funzionano? È tempo di fare qualche bilancio, anche se siamo tutti in questo periodo un po' distratti dal Covid, è però necessario fare anche un punto della situazione su questi argomenti e naturalmente noi oggi lo faremo. In questo mercoledì del lavoro parleremo però anche prima di un altro argomento. Domani c'è il Festival del Lavoro dei Consulenti del Lavoro, ci sono tanti temi importanti all'ordine del giorno di questa kermesse, noi ce li faremo raccontare tutti da Marina Calderone, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro per l'appunto. 800 24 00 24 il numero verde che se volete potete comporre per intervenire in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666, riceviamo come sempre i vostri sms ma anche i vostri messaggi su WhatsApp. Prima di partire però una precisazione su alcune notizie date ieri, voi ve ne siete accorti subito ed eccoci qua a correggere un pochino il tiro. Allora, ieri abbiamo parlato, come ricorderete, del congedo speciale Covid, che è quel congedo che permette ad un genitore di assentarsi dal lavoro nel caso in cui un figlio sia risultato appunto o positivo al Covid naturalmente, ma si può richiedere anche nel caso in cui i figli siano costretti a casa in quarantena a seguito di contatto con un positivo. Lo precisiamo proprio perché ieri avevamo erroneamente parlato di caso esclusivo di contagio dei figli stessi e invece questo congedo speciale si può richiedere anche a seguito di contatto con un positivo. Davvero questo Covid ci sta facendo andare fuori di testa, molto spesso anche con le informazioni non riusciamo ad essere super precisi, ce ne scusiamo però poi con la nostra Valentina Meris. Abbiamo effettivamente ricostruito il momento in cui avevamo dato questa informazione non corretta. Ricordiamo che la condizione fondamentale per richiedere questo congedo è che la prestazione di lavoro del genitore che la chiede appunto non è svolta appunto in smart working, non può essere in smart working né il richiedente né l'altro genitore, insomma ci sono tutte condizioni, tutti i passaggi molto delicati per i quali vale la pena informarsi molto dettagliatamente. Fatto tutto questo necessario passaggio per correggere un po' il tiro rispetto appunto ad un'informazione non totalmente corretta che abbiamo dato ieri, adesso abbiamo il nostro consueto piccolo giornale radio del risparmio e quindi direi di partire. Meazza con Rosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina. Allora, prima di tutto una segnalazione che riguarda il Sole 24 Ore, oggi è in edicola la seconda e ultima puntata del Focus Norme e Tributi, dedicata agli approfondimenti sul decreto legge agosto, di cui peraltro abbiamo proprio parlato poco fa, citando il famoso congedo speciale Covid per i genitori. È un provvedimento che, come sapete, è appena stato convertito in legge e oggi è in edicola appunto con il quotidiano e ha come piatto forte le disposizioni sul lavoro per attutire gli effetti della pandemia, sull'occupazione. Ci sono le novità sul blocco dei licenziamenti, la proroga dei contratti a termine senza causale, lo smart working per chi ha figli in quarantena, per cui potete andare a rivedere tutte le informazioni super precise in questo speciale in edicola oggi. Si passa poi alle varie opzioni possibili sulla cassa integrazione. Il focus è completato anche dalle misure di aiuto a lavoratori in difficoltà e tutti i provvedimenti appunto di sostegno dell'economia, per cui è un numero davvero da non perdere. A proposito di lavoro, c'è un rapporto interessante, il rapporto Asso Franchising Italia 2020, strutture, tendenze e scenari, che ci racconta molte cose interessanti rispetto a questa possibilità di darsi in qualche maniera un po' la libera impresa. Allora, dovete sapere che le figure femminili che operano nel settore rappresentano circa il 35% del sistema franchising italiano ed è una percentuale che risulta decisamente superiore rispetto al dato nazionale delle attività produttive a conduzione femminile, che è attestata intorno al 22%. Secondo Unioncamere, infatti, sono poco più di 1.300.000 le imprese femminili in Italia registrate lo scorso anno, e nel periodo 2014-2019 sono aumentate maggiormente rispetto a quelle maschili, più 2,9% in questi 5 anni verso un più 3,0% appunto delle imprese maschili. E quindi siccome domani e dopodomani si tiene peraltro virtualmente il Salone del Franchising 2020, sarà interessante poter andare a vedere un po' tutto questo sistema, come sta funzionando, come sta reagendo alla crisi e se ci sono anche delle opportunità di fare imprese per l'universo femminile, che è risultato essere quello maggiormente colpito dalla crisi da Covid, lo abbiamo detto tante volte. Un paio di notizie di carattere finanziario: torna il BTP Futura. È stato un tema che noi abbiamo affrontato molto tra maggio e giugno con tutte le missioni speciali del Tesoro italiano per raccogliere fondi attraverso il risparmio delle famiglie italiane, appunto per eventualmente destinare queste risorse proprio a fronteggiare la pandemia. Torna adesso la seconda emissione del BTP Futura. Sarà anche questa una emissione esclusivamente dedicata ai risparmiatori privati e sarà un'emissione destinata a finanziare i provvedimenti per l'emergenza pandemica. L'emissione è prevista per i primi di novembre, il titolo sarà collocato esattamente da lunedì 9 novembre a venerdì 13 novembre. Rispetto alla precedente emissione, che era decennale, il nuovo titolo avrà una durata un po' più breve, sarà di 8 anni. Anche questa emissione prevede un premio fedeltà previsto per chi compra il BTP Futura all'emissione, come tutte le altre precedenti emissioni. Funziona così anche, come ricorderete, il BTP Italia, e naturalmente è un premio fedeltà che viene riconosciuto a chi detiene il titolo fino a scadenza. Sarà un titolo collegato alla ripresa dell'economia nazionale, il premio minimo garantito sarà pari all'1% del capitale investito, ma con il famoso meccanismo di step up, un meccanismo appunto complicato, sarà un rendimento che potrà aumentare fino ad un massimo del 3% dell'ammontare sottoscritto sulla base della media del tasso di crescita annuo del PIL italiano. Il BTP Futura presenta delle cedole nominali semestrali appunto calcolate sulla base di tassi fissi predeterminati e crescenti nel tempo, il famoso appunto step up, come vi avevo detto poco fa. La serie dei tassi cedolari minimi garantiti sarà comunicata al pubblico il venerdì precedente l'inizio dell'emissione, cioè venerdì appunto 6 novembre. Un'ultima notizia prima del primo approfondimento di oggi. Ieri, vi ricorderete, vi abbiamo detto che si era svolta nella giornata precedente l'assemblea dell'ANIA, l'Associazione delle Imprese di Assicurazioni Italiane, e tra le altre cose che erano state dette appunto dalla presidente Maria Bianca Farina, la presidente Farina, appunto la presidente dell'ANIA, aveva anche ricordato che in Italia circolano 2.600.000 veicoli senza la copertura assicurativa. Ma c'è anche dell'altro: nella sostanza si sta facendo una ricognizione sempre più attenta, lo fanno le associazioni dei consumatori,